nascosta bene. Luna blues, esci fuori stavolta conviene. Luna blues, forse non sai che è un regalo per te. Luna blues, questa vita ha bisogno di te. Luna blues, rannicchiata laggiù tra le onde. O forse sei arrampicata alle cime di un monte. Magari spunterai proprio sopra di me, tra le nuvole rosa. Illuminando ogni cosa. Luna blues, ci sono giorni in cui dico ma sì, lei non c'è, forse oggi è meglio così. Oggi no, il mio cuore non vuole volare lontano. Non ho bisogno di sentirmi gridare ti amo. Poi arrivi tu in una notte in cui non me lo aspetto. Sento morire e in un attimo illumini il letto. Io ancora voltato di schiena mi giro, ti guardo, stanotte sei piena. Buongiorno.